passo montagna, anch'io ce l'ho, passo montagna, non ce l'avevamo l'anno scorso. Ma quelli che ci mettevamo per andare a pescare? Ma io ce l'ho proprio questo qua, quello con gli uccoli, questo che c'è, questo film qua, vedi? Quello lì ce l'ho io, uguale dentro. Cosa arriva? Rapina. L'ho comprato, lo sai dopo, ma quelle cose facendo all'Italia. Ah, da quello. Era quello che vende roba militare, va? L'ho comprato lì, l'ho comprato per quando andavo a calamare, quando c'era il freddo di dicembre. E infatti una dimmi, la giubbotta, io sono avvicinato in cui. E carabinieri mi hanno detto che non si può usare quel passamontagna lì. Boh, non so se si può usare o non si può usare. Comunque la cosa è che fate un po' di cacchio, già va bene. No, io ce l'ho così a berrettino e poi c'ho quello, quelli nuovi là, quelli che avevo comprato l'anno scorso, quello la Daiva, quell'altro, la forbice. Sta salendo che è entrato e ho detto, ma quella rete quanto viene però? Perché se tu te la lascio 8 euro. Ho detto, ma quella rete non si spaccia, no, bisogna legarla, cazzo sono nuovi e devi dire, non ti compriso. Ma raccolgo una volta appunto l'orato per entrare i resti. E allora a ritirare per più l'orato, tutti e quattro bugini. Mi chiamava il dottore che bisogna già modificarla, va. Bisogna legarli sotto, capito? Cosa c'è sul canale 10? Poi è tutto spento dentro, sono qua nel salotto, mi sto guardando la televisione e sto parlando col portatile. Io mi ho chiamato da Guzzi a cosa? A Baia Sardinia e l'altro era quella, l'altro era a Sant'Antaleo. Lo so, bisogna andare. Vabbè, farà, già ci sentiamo, già ci sentiamo alla radio, là. Fammi sapere comunque, se decidi di andare con Roberto, fammelo sapere, che così io sabato mattina mi organizzo diversamente. Se invece dobbiamo andare, domani sera me lo dici, così mi preparo la roba, capito? Già, ci mettiamo d'accordo domani sera, dai, ci sentiamo domani, ok? Va bene, dai, ciao, buonanotte, saluto a casa, ciao anche a Luca e a quelli che stanno ascoltando, ciao, buonanotte. Vai Luca! Ciao! Ciao a chi mi ha salutato, ciao! Beh, anche io chiudo, sto guardando il video. Ciao a tutti, buonanotte, anche a quelli che sono in ascolto. Agli orecchie di maiale, ciao! Canale 5, sta tranquillo che piove, per carità. Il canale 5 ha fatto tempo brutto, non lo litiga, non lo usaccio. Eglia, che devo litiga, casino. C'è freschetto, ma la sotte c'è freschetto, se che c'è la cosa e così eccolo. Comunque là io non ho sentito nessuno, strano che tu abbia ricevuto un segnale a fondo scala, se qua non è arrivato. Lascia perdere Lucio, io sto ascoltando con un'altra radio, non col portatino, l'antenna in gomma, c'è l'antenna esterna. E ti hanno salutato prima, ma hanno salutato anche a me poco fa quando chiuse. Era a fondo scala, più forte di tutti. a tutti i dì. Specie con il zenno vuol dire così. Ma lo direi a voi della gente che vuole accortare chi. Se ti convinciamo qualcosa a nessuno, vuoi far vedere Franco, cazzo. Passa via, non ci ascolta nessuno. Loro mondo è curtendo in chili. È gente che si schiaccia, si gaffigheggia a tutti i buoni. Comunque, vabbè. No, signor, no, di peso a nessuno. Ma per nessuno. Ma io sì, no. È un bel sensibile con la radio di Marocciò. Un bel. Se ti dico che l'ho sentito, è molto forte anche, molto forte, capito? Già c'è. C'è la gente che ascolta lì, che cazzo siete convinti voi, ma inutile sai chi, si dice può parlare quando ci vogliamo ascoltare, quando vi volete ascoltare, perché ci siete più voi che io lì. Però senza parlare di cose del cattivo degli altri, tanto c'è gente che ascolta e poi ne succede una polemica. Lì è pieno di gente, ti ripeto. E se schiaccia la portante, fate un buon danno. Non so che dirti. Non so che dirti, mi ha trovato nei danno, se me ne affittiamo la fitta assai. Infatti, prendiamo la cosa com'è, ma non diciamo cazzate, passa lì che non ci ascolta nessuno. Stamattina c'era Teresa e mi hanno detto file per segno, cosa stava dicendo, cosa non stava dicendo, cosa non aveva la sorella. Certo, già, siamo convinti che l'organizzazione è pieno di niente. È pieno di gente, magari è lo stesso che ci sta disturbando il 27, ascolta anche lì, capito? Sa i nostri movimenti, sa tutto. È diventato un troiaio, dai, non si può più fare niente. E vabbè, lasciamoli fare, a me non ne frega niente. Se lo possono fare, lasciamoli fare, tanto cosa. A me non metterò da imbucciare. No, neanche a me, non me lo interessa, io mi sono ritirato, non me l'ho tenuto. Se lo vi sento, entro lì, vi saluto, non avevo 5 minuti, poi me ne vado. Adesso io ritorno col portatilino, perché non è il mio ritorno. L'ho riparato, l'ho regalato anche l'antenna di gomma che ce l'avevo, gliel'ho messa nuova. Non me la futti nulla. Io ho deciso di rimanere solo qua, parlo qua, mi diverto qua, se devo scattiare faccio quello che mi piace, sempre non dico tutti e basta. Per il resto ho deciso così, non me la futti più nulla. È stato bello sognare, che te se ne frega. Io la giornata non voglio morire, tranquillo ci tengo, sì, nessuno mi guarda le batte. Non c'è più nessuno qua. C'è un pompone, che non va a entrare avanti? Non ci sono questi due che parlano dalla Budino, che ho capito chi siamo. C'era qualcuno che stava chiamando a te poco fa, torre. Torre, non sono più torre io. Non sono più torre, adesso sono l'uomo del monte. E poi le tra il culo abbattate. Che sono tutti vergogni, Santiago 5 mi ti ha portato. Che è il bei, lui che aveva portato. Comunque hai visto lui, si è reso conto come ti ho detto io, tu ti metti sotto casa mia, e ti c'è il segnale più forte di tutti della portata, nonostante io riesca a sovramodularla, hai visto, che la passo, ma hai il segnale più forte sotto casa mia, vuol dire che è vicino a me. Eia, però, tu sei a piedi, adesso mi ricordo, sei 3 o 5? È impossibile che il baracchino arrivi da fondo scala, è impossibile, è impossibile. figlio. Io vengo sotto casa tua, in macchina, te lo faccio vedere quando vuoi, col magno, eh? Adesso intanto c'ho l'attacco a Cinesigari che mi hai fatto. Vengo sotto casa tua. Tu, tanto c'hai il microfono di coso, da capo. Metti la portante in automatico, io stacco il PL e ti faccio vedere quanto avessi. Sì, a fondo scala pieno, sotto casa tua. Non sotto nel portone, anche all'angolo, appena appena più su. Forse anche vicino al Caracas, sì, a fondo scala, perché l'ho già provato. Vuol dire che c'è radio e sorda. Mi ha fatto assai, lui mi chiama a mattare un capogometto. Oddio, si diventa così, lasciamo divertire, tanto. Cioè, non riusciamo a trovarlo. No, ci vuole uno strumento giusto, che ti indichi dove, allora proviene. Ti ruba l'acchino, non i buchi vedi. A meno che uno entra sul tetto, allora qualcosa si può fare. Ma se uno ha un'antenna nascosta, come fai tu a rilevare il segnale? Cioè, il segnale lo rilevi, ma dove, da chi, da che punto? Se non si vede un'antenna. Tu come fai a sapere quello e quello e quell'altro? Non ce la fai mai, tra, mai. Sono istruiti apposta. Le autorità competenti già ti scoprono, stai sul certo, perché ci vuole un radiogoniometro, come hanno loro con la sua attrezzatura in dotazione, e ti trovo, perché il radiogoniometro ti porta dentro il segnale e da dove stai parlando, capito? Se tu sei di fronte a me e io ho il radiogoniometro acceso che ti rileva il segnale e mi dice che tu sei lì di fronte a me, io sono tutti i campanelli, ma tu sei di fronte a me, non ci sono cazzi, capito? Se tu rilevi il segnale sotto casa mia, più forte del mio, la portante è attaccata a me, può essere il portone a fianco, o cattura un'antenna in gomma, o ce ne sono un di polo barrato che non si vede, può essere mille cose, però è così, capito? È così. Comunque guarda, sono sicuro ci buoni di 3 in 4 in macchina non ci appiti, ma in manco guarda ci va Mazzetti, non lo trovate qua, perché il segnale è forte, allora, ma ha fatto forte, sai dove? Lì vicino al distributore di Ruby, però levando il PL non arriva, invece sotto casa tua mi ha fatto segnale forte sul più del più 30, tu eri sul 3. Allora lui senza PL era 1, segnale 1, ma questo anche è Franco. E tu eri, adesso mi ricordo, se eri 3 o 5. Come è lì, vicino, non è che quando uno arriva a 1 senza antenna vuol dire che c'è il segnale forte, perciò è in zona. Allora, siccome tu eri sotto, io ti arrivo a 3, quello che è 1 può essere a 100 metri da me, quindi quello che ti ho detto io, in linea di massima, verso la Peroce, verso, non lo so, non so più cosa pensare. Il fatto è che questo sta rompendo i coglioni già da questo tempo e bisogna che lo scopriamo, ma non per noi, no, perché a noi non ci fa niente, vedi che non emette quando parliamo noi, perché lo sa che non ce la fa, siamo tutti attaccati. Sta costringendo la gente, tipo Rita, che è molto entusiasta di entrare alla radio, di fare, c'è Pinangelo, c'è Salvatore di Palmadola, ci sono questi nuovi che parlano dalla Budinudi, siamo un bel ami, e sono tutti segnali piccoli, capito? Cioè, hai visto stasera che è entrato Salvatore, che ha la Porto Torres, che erano anni che non lo sentivo al baracchino. Un carissimo amico, siamo nati praticamente assieme, la mia età, è entrato a salutarmi 5 minuti, tu l'ha portata, è un miserabile, non si fanno queste cose. Come da me, che ho radio buona e che ti bussa la mattana, non alla bunia di sì, a quelli che hanno il segnale basso, sei miserabile. Ma Allora, secondo me fa così, guarda, poi se sto sbagliando, comunque secondo me fa così. Lui ha l'antenna sul tetto, no? È un dipolo. Cosa fa? Lui con l'antenna sul tetto cioè, vede segnali, adesso 9, 9 e 5. Quando lui vede così bassi, cosa fa lui? Col dipolo mette la portante, perché sa che col dipolo a te arriva 9,30, 9,40. Ecco cosa fa, perché lui li sente, perché uno come fa a mettere portante là, se non lo sente, tac tac tac tac tac, cioè quando filma uno e tacca, spalla fa così, con la tela grande ascolta i segnali, quando smette un arrivo e vede che lo sta disturbando, qua succede, lui molla, capito cosa fa? Esatto, esatto, me ne sono accorto anch'io di questa cosa, perfetto, così. È così, perché segue i segnali bassi con l'antenna. Quando vede che sono in QSO, ciamba, gomuta e piccolo gol e di polo. Perché tanto sa che, essendo vicino, essendo in zona nostra, anche con di polo quel segnale lo copre. Perché poi lo diciamo noi, capito? Mi sta arrivando 8, mi sta arrivando 9, mi sta arrivando 5, mi sta arrivando 7, lui sa che qui arriva 9,20 col dipolo, 9,40 con l'antenna, e allora io vengo il dipolo. E così lui, hai ragione, è così. E ho già avuto voti, non so cosa dirti. È un tormento che ci stiamo portando già da qualche settimana e saprai tu fa, saprai tu fa. Io oggi ho cercato di prenderlo in tutte le maniere, cioè ragionito, perché se ne stanno portando, cioè con chi ce l'hai, hai problema con qualcuno, nulla. E continuavo, alla fine io non mi sono riuscito da imbecille, non me la fatti più nulla, forse mi sono ribiati tutti avanti, io ho solo questa radio, non sento più a nessuno, non parlo più con nessuno, parlo qua, se mi fanno parlare, se non mi fanno parlare farei dovuti con un Franco, se non mi fanno parlare non esiste, se non mi fanno ricevere, parlo con chi ricevo, cosa non lo so ammazzano. Guarda, se per caso capita che di nuovo entra, magari non ci sei tu a casa, non so se sei in giro, e qualcuno si fa ma sto casa tua accusante. Stavo prendendo una sigaretta. E così lui, è un telefono alla malattia che ha diritto. Purtroppo dobbiamo convivere con questa gente. E allora eravamo convinti che la frequenza era pulita sino a qualche tempo fa, quando poi qualcuno ha dato il bando, ha iniziato a telefonare a destra e a sinistra, attacca qui, attacca là, e si è sporcata da tutte le parti, perché così, la realtà è quella, anche se qualcuno non condivide le mie idee, però io parlo tranquillamente senza nessun problema. Eravamo in pochi e in pochi stavamo bene. Ha iniziato a entrare un sacco di mondetta, un sacco di enti, di signori, di cialosa. Ecco lì che sia da una parte che dall'altra, in generale, è diventato un grandissimo troiaio per conto mio. Lo so, troppo si è sporcata, eh. Si è sporcata un bel... Mi va. Ciao, su cosa dici? Comunque, col il baracchino non ce la farei mai. Lo nostro momento giusto che ti indichi magari dove, da dove proviene la portante. Col baracchino, bocca di nero da gabbo. Ma neanche se si girate in 3, in 4, 5 macchine si macchina, non ti fai. Cosa che poi, una è via Pascoli, l'altra la mano già col cuore, una la metti in via Castelletta, l'altra la metti in qua, via Valdetta, per dire. Ma trovi mai, non ti fai. Ma ok, si potrebbe anche fare, perché no? Una è via Valdetta, una è via Pascoli, una dalle parti di Castelletta, una la Cadolce e una magari no, su quasi un chilometro lì, e vedere un po' più o meno, e poi tramite tramite baracchino vi comunicate dove è più forte. altri modi tu per prendere, io mi ricordo vent'anni fa, forse anche di più, io sono più di 20 anni a Sassari, avevo forse 19 anni, non mi ricordo. Ma per l'autore di successo un blitz del genere, o c'era questo che ogni giorno, cazzo, no? Non c'è, io ti parlo degli anni miei, a foto ce la fanno minimo una settantina di cibi, ma veniva un bel arrivo, quindi già sarebbe lì. Un bel. Beh, una sera ci ha rotto le palle, mi ricordo io, Fortunato Alfetta, Carlo Titano, Giampaolo, allora era bello stabile, sì, aveva sempre il problema della gamba, però da quella via. Ma via camminava e corriva a Buru, era con Francesco TM, con Solio, Delfino, la buona Delfino Bianco, il Vincenzo, ma eravamo se non una decina di macchine, io c'avevo la 126, con l'antenna base magnetica, c'era Gianni, quello che parla di Carlini, non Gianni quello che ti ha salutato stamattina, quell'altro, che porta solo 8 botte, non mi ricordo come si chiama. Comunque già hai capito chi è, c'era quello lì e c'era il baracchino lo stesso, a Bulgarvira. Insomma, lì l'abbiamo scovato, avevamo una decina di macchine, la Monte Angillo, la via Balaia, Scuglio Lungo, sopra nel Porto Torres Vecchio, diciamo, nei vicoli di via Cavour, via Petronio, la via Betania Madre, tutto. Beh, cazzo, l'abbiamo scovato, e poi casino abbiamo fatto la notte, ma casino a vedere. Questo qua, non so, troppe bussi, uno ti può fregare quando vuole, quando e come vuole, chi è esperto su queste cose ti frega e tu non ce la fai mai a trovarlo. A meno che non hai un coso, non hai un, come si chiama, uno strumento giusto, ecco, adatto a queste cose qua. Ma con un baracchino, non ve la fai. Guarda, se ce l'ho qua, allora lì al distributore mi ha fatto quasi sul più, sotto casa tua, aspetta, quasi sul più, senza antenna nulla, non si sentiva niente. Sotto casa tua segnale 1, vabbè, poi il segnale con l'antenna era sul più e tu eri sul 3, sì, ce lo passavi tranquillamente. Tu ce l'ha fatto anche a me a Franco l'altro giorno, ci siamo fermati quando c'era portante, prima abbiamo fatto il giro dall'altra parte, verso Stefano, poi siamo scesi da via Boggino, a senso contrario dall'altra parte, e ci siamo fermati lì all'angolo del fornitore di via Pasqua e documentava tum con l'antenna attaccata per la fondo scala, ok? Cazzo, senza antenna non lo sentiva, quindi non può essere lì. Oppure, come mi ha detto un amico più esperto sicuramente di me in antenne, mi ha detto qua, se c'è un depot o in orizzontale oppure avvo invertita, puntato da qualche altra zona, ti fa il segnale alto con l'antenna, e il segnale senza antenna non ne hai. Perché, ma è tu di polo, lo sai quanto è me, irradia sui due bracci, quindi secondo dove sono puntati i bracci, allora prendi il segnale. Così mi ha detto. Anche come hai detto tu, non so se hai detto tu o Franco, se non mi ricordo, anche può usare anche una bibanda oppure con un dipolo, si può giocare, ecco, commuta e si gioca, poi ti fa un passaggio con l'antenna grande, poi commuta ti fa un passaggio col dipolo, poi commuta ti fa un passaggio con l'antenna bibanda. E magari tu pensi che lui sta pompando, perché no? Ma il gioco più bello è quando non c'è la direttiva, una direttiva puntata per dire a nord a un segnale, a nord est ne ha un altro, puntata verso la mia zona, mi prende in pieno, mi può fare anche il fondo scala, che casino, non passano in giù, ha fatto un passaggio da 9.50, cazzo, figurati che io non passavo neanche da Stefano, non passavo neanche da Stefano, quindi tu immaginati, 9.50, cazzo. Ed era quello lì, era il segnale di quello dell'altra volta che abbiamo mandato la registrazione, quello lì era il segnale, 9.50, segnale che c'è Gianni. Non è che, come mi ha detto Gianni, infatti io penso, no, non è nuovo più assoluto. Io non penso neanche che sia lui, né il suo vicino, non ci penso neanche minimamente. Però io per fare un riferimento chiaramente ho citato lui e ad un'altra persona, ma non è che ho detto che è lui, per carità. Però per dire, no? Cioè quando un segnale deve essere già nel 9.50, chiaro che un riferimento ce l'hai. Però non ha detto neanche quello, perché per dire 9.50 mi arrivi anche tu, più di 9.50. 9.40 mi arriva a te, fanno capire un pezzo di video, quindi io cosa lo subisce. Però quando inizi a vedere due o tre segnali, quindi inizia a 9.10, 9.20, mi fa 9.30, 9.45, 9.50, io posso pensare che sta girando con la direttiva, capito? Giusto per disorientare il segnale. Può lavorare così, oppure come hai detto tu, due o tre antenne, una multibanda per dire anche HF per i 10 metri ha un segnale inferiore ad una verticale tipo la nostra, un dipolo lo stesso, un altro dipolo per dire accordato per i 10 metri ha un segnale inferiore ad un'antenna verticale come la nostra. Ci sono tante cose, però purtroppo non si può dire Tizio, Caio, Sempronio. Bisogna avere gallo, me lo guarda. Cando, du, sotto, gaza di uno, mi muovi l'antenna, senza antenna, e il segnale a fondo scala, allora è lui, non ci sono dubbi. A meno che non ci sia un altro a fianco che sia insomma disturbato, come è capitato a me in un'altra frequenza. Capito? Qualcuno ha detto che lui io lo decido, la radio era offente, figurati. Mi hanno telefonato per dirlo, ma non me ne ha fatto nulla, io non può pensare sui ribelli. Quando non pensa e fa, infatti io per tagliare la testa al toro, non ho antenna, non ho niente, c'è un'antenna del poggiolo per ascoltare che arriva da qui a lì, di quanto è coperta, di quanto è tutto in mezzo all'albero. E sul tetto non c'è più niente, così nessuno mi accusa di nulla, capito? Bisogna vedere Luca, bisogna vedere, perché può essere anche sia qualcuno con un'antenna buona che stia rompendo i coglioni per qualche altra cosa che abbiamo fatto, non lo so. Ascolti così, cara. E così, comunque. Comunque sia, no, non è buco di vedi, non è cavato a piede perché no, non ce la fa la telecamera. Se uno può lasciare pure che magari quello che sta sempre attaccato che è rutta, sto pensando anche che uno, ok, che è rutta e ti fa le pernacchie, magari non so, c'è qualcun altro che ci mette in mezzo per romperci le balle e ti fa un altro segnale, poi ce ne sarà un altro ancora che ti fa un altro segnale, forse anche così, ma che cosa fai tu a trovarli? Ui. Lo so, sono d'accordo con te, non è quello il problema, sono d'accordissimo, però il fatto è che qualcuno c'è, insomma, c'è qualcuno che sta qua vicino a noi, non so, magari entra anche a parlare con noi, il discorso che faceva Franco l'altro giorno fuori Sassari, ma non è così, non esiste, non ci arriverà mai con quel segnale da me, non ci arriverà mai, io chiedo anche a Roberto, no, se quella persona lì mi arriva sì forte, ma non a questo segnale. Come il segnale che fa a me non è quello lì, non è da puri sassari da portante, non lo più assoluto. Se fosse stata per dire 9.10 ti avrei detto sì, va bene, può darsi pure, battiamo lì, ma è 9.30, cazzo, buffone dice, 9.30 e anche mi arrivi Gojami, quanto mi arriva, come si chiama? Cioè, i segnali che ho qua a Sassari, là, sono segnali di Sassari vicino anche a me, non sono segnali di fuori. Comunque, vabbè, si vedrà, continuiamo a farcene tranquilli e sereni, quando si può parlare si parla, quando non si può parlare. Pazienza, è inutile stare a fracassarci le balle, a mattanarsi le verbedo, con chi è nato per fare queste cose. Io me ne taglio le balle, guarda, in vita mia, in 30 anni più di radio, se avrò rotto i coglioni con la portante forse due volte in 30 anni di radio, ma proprio per rompere le balle, per disturbare, capito? Per disturbare, ma non mi sono mai nascosto dietro il microfono, non è il mio hobby mettere la portante. Quando devo mandare a fanculo una persona la mando alla radio e ne dico tutti i colori, capito? Perché è uno schifo, anche perché, ti ripeto, su di noi non può giocare molto perché siamo tutti attaccati e deve giocare parecchio, devi consumare un bel corrente. Gioca su questi nuovi che sono entrati, che hanno voglia di parlare, tipo Rita, si è comprato la radio, c'ha l'antenna, non sa se piazzarla o non piazzarla, Luigi si è comprato la radio da Gaza e non ne voglia bere, tra disturbi, quando chiude quello, si fa due chiacchiere con lui, mette una portante, perché qua Luigi me lo copre, capito? No, me lo copre. Quindi Luigi, Salvatore, Antonello Laiti, Finangio, cazzo, conta, sono già quattro bassoni che non puliva vedere un Sassari. Senta, tutti questi che ci sono, due nella Budi Budi, c'è Pierpaolo qua vicino a me, c'è Salvatore a Porottore, c'è l'altro Salvatore qua in via Pascoli, cioè, cazzo si fa? A chi te la bidi un Eddie? Ti devi dire con noi, no? Beh, lo sa, lui lo sta dicendo. Non puoi mai sapere come ti funziona, non puoi mai sapere. Sicuramente sono più persone che si sono messe d'accordo, io proprio con le balle sul 10. E infatti fanno diversi segnali, è così. O puoi darci pure come ti ho detto io. Ma io vado alla grande, ti ascolta, siccome sa che i segnali nostri sono furti, e cosa succede? Che non ci disturba a noi. E cos'è? E allora, come per i segnali bassi, siccome sa che lui arriva più forte di quel segnale lì, prende e rompa le balle. E non è macro, è un guai, stai tranquillo, è molto esperto, claro. Non è un rubato all'aria così. Stai tranquillo che qualcuno è esperto che le fa queste cose, perché non può essere uno che si è da comprato un baracchino per disturbare, ma assolutamente. Oppure magari non è esperto, comunque qualcuno che ci aveva da tanti anni, ecco, e magari l'ha fatto altre volte, e bisogna scoprire, se io problemi non ne ho, se proprio ci vogliamo mettere d'impegno, ci diamo una mossa e vediamo un po', dai, facciamo, circondiamo il monte, vedete busti lì, monte la terroce, vedremo un po', magari non proviene dalla terroce, ma proviene dal chilometro, chi lo sa, e lui, qualcuno sicuramente che non sa cosa fare, allora si mette lì a disturbare. Così lui gode, perché iniziamo a dire parolacce, a bestemmiare e così via, dai. Poi ci prendono pure per maleducati. Ma stavo facendo apposta, per quel motivo lì. No, ma io non dico parolacce. Io lo mando in affanculo e buca, capito, non me ne frega niente. C'è lo stare matando del bedonetto. Certo me ne frega. Però ho deciso di divertirmi qua come ho fatto da 30 anni a questa parte, tutto il resto non me ne frega niente a me, io vivo qua, alla Norvegia c'è la giamba, non mi interessa, però il discorso è, ti ripeto, ribadisco che non è tanto per noi, perché a noi non ce ne mette, l'hai notato che a noi non ce ne mette, magari ci ascolta, no, ci ascolta perché so che ci ascolta, però non ce ne mette, è importante, perché non ha nessun significato mettere a noi, lui lo sa che siamo tutti vicino, capito? Non lo so, se io fossi stato per lui a Carbonatti, magari l'avrebbe anche messa, perché sa magari di darmi fastidio qui al monte, anche se le veniva male lo stesso. Però sapendo che io e Franco siamo attaccati, con Giovanni siamo attaccati, con te siamo attaccati, c'è Gianni, c'è Walter dietro, il cazzo c'è, insomma, siamo qui, c'è Natalino su, i segnali ce li abbiamo, non è che non ce li abbiamo, ci sentiamo tranquillamente, perché il segnale più basso qua è, diciamo che è quello di tuo fratello con il Polo, 9.40, quindi lo sagliato batti. Dovete essere tutti 50-60, perciò lui deve lottare molto per disturbare lui. Si attacca a questi che stanno entrando, che hanno il piacere di fare due chiacchiere con noi, ti ripeto, e quindi non va bene, non va bene. Io non so cosa dirti. Per me può continuare a fare il cazzo che le fa, le piace. Io sono sempre qua e continuo a rimanere qua, non me la fotti nulla. Non ce l'ha con noi, ce l'ha con se stesso, non sa manco lui quello che vuole. Infatti, comunque già che non siamo accorti, pure noi che ci aprono con segnali bassi, perché a noi non ci fa niente. Poi se non vuole continuare, lasciamo fare, ma mi dispiace per Salvatore, vedi. Entra sempre, Pinangelo, vabbè, poi c'è Rita, insomma, che segnali più bassi, dai. E ora sono sicuro, se Rita per Antenna aumenta di brutto qua, minimo mi arriva pure più forte di Luigi. Adesso vediamo un po'. Ti immagini il rende quanto è quella che c'è adesso? Non sale più di quello, è 9.5 quanto Luigi quando ci aveva la boomerang, e quando monta la manta va, non arriva più 9.20, può arrivare 9.20, appena più 9.20, ma non credo che da 9.5 arrivi 9.30. Io pensavo che Luigi arrivasse molto più forte quando ha messo la manta, va, però mi ha fatto da 9.5 a 9.20, a me mi arriva Luigi, 9.20 è qualcosa, non di più. Hanno buone zone rispetto a noi, verso la costa, verso Piazza dei Punti, no? Da quella zona lì non c'è Cristo, lascia aperto. Sono mio un po' coperti verso Alghero, ma le altre zone, cioè io vedo nel tutto, è una piana allucinante quella, fortissima, molto molto forte. Lo so perché a casa di Walter ho fatto 1000 prove, ho visto 1000 segnali, non ci credevo, cazzo, allucinante, veramente una zona miracolosa quella che volevo prendere lì. Sono che costa una bella di soldi le case, un bel, ma per adesso già rimango qua, poi si vedrà. Mi ha girato un bel balle stasera con Tore, siamo come fratelli, perché siamo andati assieme, ci conosciamo una vita. Gli anni che abbiamo ci conosciamo, guarda, perché è quanto è me. E mi dispiace, mi ha sentito, è entrato, certo, salutarmi, erano anni che non lo sentivo, in 27. E lo sentivo qualche volta così nell'PD, mi è entrato a salutarmi, ha visto, c'è l'antenna, c'è tutto. E subito mentre ha visto lo segnale, ha detto tum. Mi ha girato un bel balle che ha trovato. In quell'attimo se potevo spaccare la testa le avrei spaccata, cazzo. Aspetta quel momento lì, aspetta proprio quel momento. Non so se hai notato. La gira porta anche a venire. Ma così mi è venuto perché con la macchina avevo Franco. Bastardo, non entri. Cazzo, come ha detto così, infatti lui ha pure detto, ma chiamata dai. Anche ieri ha fatto così, cazzo, solo mi dice la risa, perché io stavo cenando, voi non mi ricordo dove cazzo la vatte, ma sul, vi siete spostati sul 1, mi pare la vatte, sul 5, forse sul 5, E stavo cenando. Ho finito il cenare, mi sono sentito qua, radio, mi ha acceso la sigaretta, c'era su 10. Gianni con quello del lì di cosa, del, come si chiama lì, della Budibutti. E stavo ascoltando la verità, stavo ascoltando, stavo fumando la sigaretta. Quindi ho sentito a Franco dall'altra parte, ho detto passa sul 40, mi pare, tu hai detto no, sul 40 non mi disturbo, allora passa sul 5, così è. No, sull'1. O sull'1 comunque, allora mi sono ascoltato sull'1, a ascoltare a voi. E lì sono entrato a fare due battute con voi. Però ogni tanto mi spostavo su 10, la verità. E non era lì trasportante. E infatti sono passato sull'1 e ho detto a Franco, cazzo, beh, Gianni su 10 con questo della Budibutti era trasportante. E Gianni ha detto a Guido, passa sul 40. E Guido la PC di misura 40. Poi si trova a portare sul 30, la PC di misura 30. A me dice, arrivi, perché perseguita le persone basse, capito? Da noi vedi non c'è venuto sull'1 a rompere le palle. Infatti pure quando voi vi siete spostati nell'altra frequenza, io sono passato su 10 con Gianni, se non vuoi fare lì, capito? Ho detto, cazzo già, dice che è da te, dove via, capito? Perché perseguita le persone basse, non quelle alte. Infatti ha detto già, noi eravamo sull'1, non c'è venuto da noi, e dice che è da te, e io ci siamo adesso d'accordo, perché lui stava parlando con questo basso. Non so poi dire quando lo stavo dicendo quando ho detto Casarella, e ho detto a se vogliamo un caffè, un brasiliano, quando stavo dicendo queste cose qua, poi tu mi hai detto guarda che non c'è qua, mi sei spostato sui 40 non per ballaggiare. Infatti poi Gianni quando è tornato a passare su 10, che noi eravamo sull'1, io mi sono svoltato su 10, no? A sottare a Gianni. Ho detto già, ti conviene venire con l'uno nel canale 1 con noi, perché a noi non ce la stanno a te, è fatta a te. Ci vediamo adesso al corpo, che sto parlando con cosa, con Pierpaolo che mi arriva a Santiago Novel. E come hai detto tu, e dove ho un'antenna, allora che cosa di Maduro. Perseguita, ovvero segnali bassi, si blocca, commuta e via, è come fare qui la batta. Vabbè, comunque io, lui ho preparato già il cavetto, quell'affare è pronto, le ho messo le due bananine maschie, quelle bananine maschie, le ho già preparate. E c'è già il cavetto pronto. Quando sento, non dico solo quel Rix e basta, poi non mi arrangio io, perché è una puttinetta. Non mi interessa. Faccio un altro sistema. Che poi ti dico come faccio. Mi ha detto un amico come fare, una vecchia volpe. Ma tu fai uscire a vedere subito i 10, capito? Ne metto un'antenna e un'esterna di antenna in macchina. Ah, che luci puoi fare? Ma va bene qualcosa, sì, quello che ti ho fatto io, l'hai controllato? Sì, tu l'ho provato con lo switch che c'è l'attacco a cimicieri. Ho attaccato il positivo negativo, lo sto con la radio accende, tranquillo. Infatti c'era col cavetto quello nuovo che mi aveva mandato Giancarlo. Quindi quello che c'è attaccato al magnum a casa non lo stacco neanche dall'alimentatore. Ve l'ho fatto doppio, no? Già pronto. Non faccio altro che svitare il PL, prendere il magnum con il microfono normale e pulire in macchina. L'antenna è già pronta, quella della Midland a base magnetica, che è nuova, c'è la gomma sotto, non graffia, mi appoggio, o nella macchina di Anna, se esco, che la meno all'occhio, macchina piccolina, con l'antenna e via. Avrei lì gli abiti ghiacci, e mi faccio una votazione, mentre va zio Brim allucinante, Grazie, già la pizzica e K. Non c'è problema. Poi se dovesse capitare che esce una citofonata in modo che facciamo mettere la portante. Insomma, tanto vale uscire. Se non è buono cosa riesce a fare? Perché la benzina fa cosa? Come fa? Copre il citofono e chiamarlo. E vedere un po'. Comunque è strano, ragazzi, è strano, allucinante, se la mattina di un capo un franco. Io stavo andando da una persona, ti giuro, guarda, me stavo uscendo da una macchina. Stavo andando a suonare il citofono, un campanello da casa. Diciamo che poi, dopo 3 minuti, infatti, anzi, volevo dire prima il nome, dico, ma continua ancora. Perché la 9.30 ricca, 9.30, 9.30 spaccato, proprio dove stavamo passando noi. Sono di più di tubo strano, ragazzi. E poi ho notato che il segnale più forte era sotto casa tua. E l'abbiamo visto anche con Franco sotto casa, io e Franco in macchina. Grazie Mipu, tanto voi non ci credete. Cosa gli ho detto a Franco l'altro giorno quando era alla radio? Quanto ti arriva? 9.25, cazzo, ma chi a me mi arrivi 9.40? E tu mi hai toccato impossibile, a me ne arriva 9. Perché qua è attaccato a me. E qualcuno è attaccato a me, non so. Ho notato di fronte, c'è il tuo litigio, c'è un ragione, non posso pensare più niente. Guarda, io te ne dico un'altra. Quando è che non ha piovuto? Oggi è giovedì, o lunedì forse. Sì, lunedì, che non sono andato a lavorare. Domani mattina mi sono salito su perché avevo lasciato roba su. I cavi, ho piegato i cavi, sai, perché magari col vento mi ha fatto le chiavi, sono salito su, ho piegato i cavi che avevo lasciato in giro, li ho portati in garage, tutto. Ho controllato l'antenna, se era tutto a posto, perfetto, perché mi ho staccato tutto, se non c'è più niente. Beh, da casa, ho controllato tutto col binocolo, cioè un binocolo, hai visto col binocolo, non hai visto tu col binocolo c'è macchina, ho preso il binocolo, ho controllato tutti i tetti che sono nella mia zona, non v'è nulla, niente, per dirti. Cioè, sto diventando mezzo esaurito anche io, ma ho controllato tutto verso la parte di Franco, sotto, dalla parte di Abbalbella, perché si vede tutto a casa. Niente, non si vede niente a casa, nulla. Non c'è un pezzo di filo, un'antenna sul tetto, nulla. Niente di nulla. Niente. Quindi questo Bush Bisha, che è quello che ti ho detto stasera al telefono. Questo Bush Bisha, c'è un Bush Bisha altro io. Infatti, io, tu hai controllato col binocolo, ma non ti vai, è impossibile, magari c'è e è bassa, non la puoi mai vedere, ma magari buono sopra, non lo so, magari può essere anche di fronte a casa tua, chi lo sa, forse in un punto magari tu non riesci a vederla. E io non è capo piede, col baracchino soprattutto. Come fai? A meno che, te l'ho detto, facciamo un po' di appostamenti, 3-4 macchine, 5 macchine. Uno per dire rimane, come ho detto poco fa, via Pascoli, uno rimane, a vedere un po', se il segnale varia. Uno lì da una lata dolce, o zona l'agraria lì e vedere un po', poi al limite invece di dire in frequenza si fa una telefonata e via, così l'unica, se no diversamente come fai? Non fa, perché se lo dici via baracchino, ma poi non i buoni più e non ce la farei mai a trovarlo, come fai a trovarlo? Vabbè, comunque non ce l'ha solo con noi, perché ho notato che se ne è andato pure sul 40 ieri, perciò non ce l'ha con noi. Secondo noi ti ho detto alle capacità, perché sono sicuro, per un pacicoglione, tranquillo che ce li ha, non è un piccolo pallino qualsiasi, o, a parte il fatto che se ti ricordi bene, l'altra volta che c'era anche Rita, ha detto passiamo 10 sotto, ci ha seguito anche 10 sotto, e 10 sotto sono un bel, capito? Cioè una banda, è quasi una banda. Perciò è uno che c'ha anche una buona radio, secondo me. Tutte radio abbia questo, non lo so. Però noi, quando usciamo in macchina, dobbiamo tenere quei portatili là carichi e portarci quelli che hanno un buon radio, cioè i battiti. Perché con l'LPD, a parte il fatto che no, non si sente un cazzo, ti possono ascoltare anche lì. Anche se lì ti ascoltano, a parte le cazzate, però... stiamo facendo un'operazione, non credo che, insomma, forse è più difficile, diciamo, là, no, non ce ne frega niente, possiamo usare quei portatili lì, tanto ce l'ho io con Vittore, tu ce l'hai, Franco ce l'ha, al limite se viene Daniele ce l'ha, capito? E magari lasciamo a Teresa a casa a sentire un po', però c'è da essere gente. Bisogna convogliare tutti quelli bassi e fare un bel corso sul canale 10 o da qualche altra parte, non so, su qualsiasi canale, fare parlare tutte queste persone, intanto quando si attacca sicuramente che ti basso. Dopodiché si prova, vabbè, si fa un esperimento, niente in particolare, si fa un esperimento così, ma come è tutto lui non è facile, non è facile per me. Non è i BTG 448. Infatti, dai, ci organizziamo al limite, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Comunque ci vuole gente esperta, molto esperta. Perché sennò come fai? Ma io sono rimasto secco. Sono rimasto secco veramente, perché avevo questo segnale che variava tipo dal distributore a lì a coso, a come si chiama, parla a sacro cuore, segnale 9 mi ha fatto, e adesso è vicino a te, un bel vicino a te, ma un bel però non lo so, dai, vediamo qua, ci mettiamo d'accordo tutti, ne parliamo, poi facciamo gli appostamenti e vediamo un po' da dove proviene, sennò io ti penso a dire culo, si abita il culo, dove un baracchino vi va. Ma ci ho coinvolto anche a Anna, io l'altro giorno, ricordi Anna parlava con noi, la collega mia moglie, perché lui ce l'ha il baracchino, a volte ci ascolta, solo che non entra perché disturba. Ho detto prova a mettere questa antenna, metto qua io la butto. Già lo sento, la portante la sento, la vedo, però dice no, non è qua attaccato a me, perché se fosse stato attaccato a me avrebbe fatto fondo scala. Ed è così, perché con le antenne nei fuggioli, con le antenne di macchina, cacchio, vanno una ricezione allucinante, vanno una ricezione allucinante. Io col dipolo, cioè col dipolo nel fuggiolo, se sentivo tutto, però a me non mi tendia nessuno. Capito? Diciamo una recessione allucinante, quindi bisogna vedere. Vabbè, già ne parliamo di persona, eh. Se non piove domani fate vedere, domani mattina. Tanto sono a presto, sono, sentiamo la radio, dai, già accendo presto e tanto. Dai, Luca, è tardi, fino a che dormiamo e neanche ci salutiamo. Ciao, buonanotte, ci sentiamo domani. Stavo dicendo io, mi sono avuto un medico. Ma poi ci aggiorniamo domani, dai. Vedo un po' cosa riusciamo a fare. Vabbè, ciao, buonanotte, a tua. Ciao, buonanotte. Oh. Vittorio Carlo Francesco Sandro. Ciao, buonanotte.